Essere e benessere di Nicoletta Carbone. C'è chi li mostra e chi li nasconde, chi li fa lavorare sodo e chi invece preferisce non affaticarli. Chi se ne vanta e chi se ne lamenta, una cosa è certa, i muscoli, perché di loro che parliamo, li abbiamo tutti e raccontano molto di noi. Buongiorno al dottor Gianluca Melegatti, medico sportivo e primario del centro di riabilitazione dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Buongiorno Nicoletta. I muscoli parlano e raccontano di noi. Assolutamente, i muscoli sono un po' lo specchio del nostro comportamento e del nostro stile di vita soprattutto. I muscoli sono straordinariamente importanti per la nostra vita, non possiamo farne senza, ci permettono di vivere semplicemente, pensiamo al cuore, al muscolo cardiaco o ai muscoli respiratori, e ci permettono di vivere la nostra vita di relazione muovendoci, perché sono dei motori senza i quali noi non potremmo muoverci. E il muscolo è un tessuto straordinariamente specializzato che riesce a trasformare energia chimica, come vedremo, quello che mangiamo, in energia meccanica e ci permette di vivere. Quindi i muscoli ci danno tante informazioni, ci dicono se siamo anche sedentari o sportivi, giovani o meno giovani, se stiamo vivendo di rendita. Certamente, magari sportivi che hanno fatto, persone che hanno fatto sport in gioventù, che a un certo punto per vari motivi familiari, di lavoro, hanno smesso di fare attività sportiva e vivono un po', un come po si a dice, vivere, un po' posso... di rendita, però insomma. E ci dicono, la nostra muscolatura ci dice anche se mangiamo in modo corretto oppure se abbiamo magari fatto delle diete un po' troppo scapestrate che ci hanno fatto perdere invece che grasso magari massa muscolare, diete un po' troppo aggressive o totalmente sbilanciate, diete che non prevedono l'idratazione, perché è fondamentale l'idratazione proprio per il mantenimento della funzione normale muscolare del muscolo. Sono delle strutture straordinarie. Ci sono delle differenze tra muscoli maschili e muscoli femminili? In realtà no. Siamo fatti della stessa pasta e abbiamo muscoli striati, muscoli lisci, abbiamo fibre bianche, fibre rosse, quindi c'è una grande differenziazione all'interno della struttura muscolare, però siamo uguali. Ci vuole un fisico bestiale. Allora mi devo arrabbiare. Se ti fa piacere. Che muscoli! Sei una treta. Il mio primo set di pesi. I pesi che ti hanno trasformato da un pappamolle bavarese in una massa di muscoli pulsanti. Anche per bere per fumo. Sì. Oh, 11. 12. Sapete, ragazzi, riesco a farne il doppio di quando ho cominciato. E guardate che addominali. Ci vuole un fisico bestiale. A proposito di fisico, di corporatura, dottor Melegatti, si parla spesso di costituzione a melo a pera per indicare un po' la distribuzione del grasso. Le mele sono belle forti di pancia, diciamo, e le pere invece di cosce, di glutei. Diciamo così. Ma una distinzione simile si può fare anche per la struttura, no? Per la corporatura. Sì, per la struttura in generale, certo. Ci sono soggetti longilinei per i quali c'è una distribuzione uniforme e, diciamo, snella della struttura scheletrica ricoperta dai muscoli. Poi ci sono i normolinei e i brevilinei. Dipende molto proprio dalla struttura, dallo chassis, dalla struttura ossea. Di solito i normolinei hanno un rapporto ben equilibrato tra gambe e tronco. E tronco, esattamente, certamente. Mentre i longilinei hanno le gambe più lunghe. Sì, si può dire così, anche se questo non è sempre vero. Abbiamo dei longilinei che hanno un equilibrio perfetto tra tronco e arti. Mi viene in mente per esempio un personaggio che è al centro dell'attenzione adesso, che è Balotelli. Balotelli, che passa per un atleta enorme, molto muscoloso, in effetti è molto muscoloso, ma è da considerarsi un longilineo, perché ha una massa muscolare importante, ma quello che risalta in Balotelli è proprio la distribuzione molto armonica della muscolatura e la percentuale di grasso bassissima. E poi ci sono anche i brevilinei, un po' più barattolini, insomma, diciamo. Sì. Poverini. No, perché... ma a me piacciono molto. Allora, individuate la... Individuate la vostra tipologia e chiamate 800 24 00 24. Potete seguirci su Facebook e su Twitter. Anche se i muscoli non li trovate, non preoccupatevi, perché ci sono, li risveglieremo. In linea con noi c'è Simone Diamantini, preparatore atletico della squadra nazionale di sci di fondo e allenatore di triathlon. Ciao Simone. Ciao a tutti, buongiorno. Simone, esistono delle caratteristiche innate che ci differenziano e ci suggeriscono anche le attività più adatte a noi e al nostro fisico? Non esiste, dimmelo tu, ma penso, un allenamento valido per tutti, ma tutti possono trovare l'allenamento più adatto per sé. Fatta questa premessa, ci aiuti un po', in base alle strutture che abbiamo delineato insieme al dottor Melegatti, ad individuare quelle che potrebbero essere le attività, gli sport più adatti per la nostra struttura, quelle che riescono a sviluppare la nostra muscolatura in modo equilibrato e sano soprattutto? Beh, allora, innanzitutto volevo dire due premesse velocissime. Sì. Uno, che la muscolatura è utilissima, soprattutto anche a reggere la forza di gravità, che è una cosa a cui a volte facciamo poco conto, ma in realtà ci aiuta in realtà a sostenere tutto il peso la gravità ci dà addosso. E l'altra, che la muscolatura dipende soprattutto da fattori genetici. Quindi sì, come... la genetica dipende, è poco condizionabile da noi, ma è gestita da mamma e da papà, ed era il discorso che faceva il dottore rispetto a Balotelli. Certo. Se parliamo di longilinei, normolinei e brevilinei, sicuramente per i normolinei l'attività più indicata è comunque un mix di attività il più possibile varie. La cosa importante, sempre, che io ritengo fondamentale in qualsiasi programma di allenamento, è l'alternanza dei lavori, sia dei gruppi muscolari ma anche dei tipi di allenamento di gruppi muscolari, perché comunque il corpo dopo un determinato periodo si adatta a questo tipo di stimolo, quindi noi dobbiamo sempre mantenerlo sul filo del rasoio, se così vogliamo giocare un parlare. Po' sull'effetto sorpresa, sempre, perché poi si adagiano sempre anche i muscoli. Sì, poi c'è anche un adagiamento anche magari della persona che esegue sempre gli stessi esercizi, quindi evitiamo di clonare un programma, cerchiamo di eseguire un programma che sia adatto alle nostre caratteristiche anche psicologiche di divertimento. Certo. Ma che venga anche incontro alle nostre problematiche. Per i longilinei normalmente il grosso problema sono la colonna vertebrale, perché spesso comunque hanno comunque una struttura magari più esile rispetto al brevilineo, quindi comunque la colonna è soggetta comunque a fastidi o a problemi, quindi spesso tutto il lavoro di core stability, che oggi viene chiamato così ma che in realtà una volta si chiamava addominali, lombari e stabilizzazione del bacino, sono molto importanti per permettere poi di costruire tutto il resto. In realtà sarebbe utile farlo con tutte e tre le caratteristiche, perché il centro del nostro corpo è quello che poi ci consente di muoverci con estrema forza ed eleganza. I brevilinei, secondo me, la prima cosa importante che dovrebbero fare è fondamentalmente un lavoro grosso di flessibilità muscolare, perché spesso sono abbastanza ipertrofici molto. E quindi guarda, sarebbe utile. Simone, vedo che il dottor Melegatti ci piace molto. Beh, direi, insomma, sono tutti concetti sacrosanti che sposo totalmente. Mi piacciono molto, perché poi tra le righe si può ritrovare nelle parole di Simone un po' il concetto di forza, vale a dire il concetto di forza generale che è utile per tutti, e poi il concetto di sviluppare la forza in modo specifico per i differenti atleti e per le differenti discipline sportive. Simone, il dottor Melegatti ha citato Balotelli, tu riesci a farci magari riconoscere la tipologia, suggerendoci qualche esempio, il fisico di qualche personaggio sportivo o no, ma abbastanza noto? Ma allora, per banalizzare un attimo, potremmo dire sui longilinei, per esempio, mi viene in mente come personaggio noto Kobe Bryant come uomo e Sara Simeoni come donna, e come uomo dello spettacolo potrebbe essere Jovanotti o Lorenzo, che dir si voglia, perché comunque è molto alto. Ecco, allora i longilinei, vi siete, vabbè, è bel gruppo, no? Longilinei hanno 800 24 00 24, modo di riconoscerci, se vi riconoscete. I normolinei invece? Normolinei potrebbero essere, ma poi sempre il confine è molto labile, io lo faccio solo per dare un inquadramento generale, ma in realtà potrebbe essere, come dire, una banalità, non so, Roger Federer piuttosto che Federica Pellegrini o George Clooney, ecco, ho proprio estremizzato. George, già mi piace. Questa caratteristica potrebbe essere per alcuni inserita nei longilinei, sì. Ma io l'ho fatto proprio per estremizzare il concetto. E brevilinei potremmo indicare Gattuso come giocatore di calcio molto, certo, conosciuto, o Madonna come cantante showgirl conosciuta, ecco, come grossa caratteristica. È ovvio che il dottore magari mi può differenziare molto meglio le caratteristiche, però all'interno delle varie, dei vari gruppi possono esserci dei sottogruppi, come diceva il dottore precedentemente. Certo, però insomma abbiamo però dei testimoni all'eccezione. Certo, no? La cosa bella è che c'è spazio per tutti a questo mondo e soprattutto nello sport. Mi viene da pensare al brevilineo che ha fatto una partita straordinaria domenica contro la Francia, Luciano Orchera, il numero 10, il mediano d'apertura della nazionale italiana. 1,71 per 76 kg, che ha giocato e ha stato il man of the match, cioè il migliore della partita, e ha giocato contro persone di 2 metri, di 115-120 kg. E quindi c'è veramente spazio per tutti. Mi piace questo. 800-24-0024 è il numero che ha fatto Gabriele, che ci chiama da Torino. Buongiorno. Buongiorno a lei, Roberta. Mi è sempre un piacere sentirla e ascoltarla. Grazie. Allora, buongiorno anche professore, io la domanda è questa. Io sono, credo di essere un longilineo perché sono 1,94 m per 120 kg, purtroppo. Però la domanda al professore è questa: io ho ricominciato a fare sport dopo 4 o 5 anni di inattività totale. Sì. Ora, a parte il fatto che sono sovrappeso e via dicendo, volevo sapere il modo migliore per nutrire i muscoli e per fare lo sport in una maniera più adeguata. Il mio sport è il ciclismo e quindi ho ricominciato da un paio di mesi a farmi circa 60 chilometri ogni 2 giorni. Guardi Gabriele, lei cade benissimo perché il dottor Melegatti è un ciclista super amatoriale. Sì, è vero, super patito. C'è qualche problema, nel senso che purtroppo farà un po' di fatica soprattutto in salita, però l'idea di riprendere ad andare in bicicletta per lei è straordinaria e le faccio i complimenti. E l'approccio è l'approccio corretto, vale a dire, io addirittura terrei un po' più di distanza tra le due sessioni di allenamento, terrei un paio di giorni di riposo e in uno di questi 2 giorni farei tanto lavoro di allungamento muscolare, soprattutto per il quadricipite, per i muscoli della schiena, per i muscoli flessori. Per quanto riguarda poi il perdere un po' di chili, beh, questo verrà da sé con l'allenamento, che deve essere un allenamento naturalmente indirizzato, a mio parere, inizialmente proprio per perdere un po' di peso e quindi lavorare a una certa frequenza cardiaca che non deve essere troppo alta, e poi aiutarsi naturalmente con la dieta. Deve essere una dieta equilibrata, deve essere comunque una dieta ipocalorica, bisogna avere un po' di fame in questa fase, sì. Però i risultati poi arrivano. Simone, hai da aggiungere un consiglio per il nostro Gabriele da Torino che inizia questa nuova avventura, questo cambiamento? Sicuramente la scelta della disciplina come il ciclismo è quella più ideale, perché comunque non sovraccarica sulla colonna e su tutte le articolazioni, quindi direi che è la scelta ideale per poter, quindi, diciamo, come portare avanti un dimagramento. Abbiamo dedicato una puntata alle 2 ruote, abbiamo detto il benessere corre sulle 2 ruote, ci avevamo preso. Allora, muscoli, longilinei, brevilinei, normolinei, vi riconoscete? I vostri muscoli vi danno soddisfazione? Si lamentano? Perché dottor Melegatti fanno anche quello, si lamentano spesso durante, dopo l'allenamento. Si lamentano anche. Ma anche nella vita normale, quando abbiamo un'influenza, il primo sintomo è il dolore muscolare. Ci sentiamo, come dicono a Roma, siamo un po' pesti, abbiamo un po' la cecagna. E questo vuol dire dolore muscolare. 800 24 00 24, chiamateci se siete sportivi e se siete sedentari, se ci sono alcuni muscoli che vi fanno dannare perché non rispondono, perché sono insensibili a qualunque stimolo, e se ci sono dei muscoli invece che, proprio perché così ben delineati, vi danno la sensazione di essere un po' impallati, troppo duri, che non rispondano più. Abbiamo in linea con noi Paola che ci chiama da Latina. Buongiorno Paola. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere al dottore, il muscolo, dopo tanti anni che, diciamo, sta in stand-by, diciamo così, ha la memoria? visto che io ho fatto per tanti anni sport. Mi piace questa, Paola, che bella domanda. Il muscolo, la memoria, grazie Paola. In realtà il muscolo è un motore, non è corretto dire che è il muscolo che ha la memoria, il nostro cervello ha la memoria e il nostro cervello ha dei sistemi che una volta acquisiti possono venire risvegliati velocemente, per cui sicuramente gli schemi motori del passato, della nostra attività sportiva, possono essere risvegliati e possono ritornare ad essere molto efficaci, a patto che questo lo si faccia gradualmente, rispettando quindi i muscoli e quindi utilizzando i muscoli in maniera corretta, facendo tanto stretching e riprendendo l'attività sportiva in modo graduale. Sì. Ascoltando questa puntata vi viene voglia di richiamare la memoria, come vuole fare Paola, e quindi rimettervi un po' in movimento. Ragazzi, noi siamo qua, 800 24 0024. Intanto che voi sfoderate i vostri muscoli, in particolare quello del dito indice, per fare il nostro numero verde, parliamo di muscoli che usiamo con piacere e con buona soddisfazione. In linea con noi è tornata a trovarci la dottoressa Maria Giovanna Luini, scrittore, medico e comunicatore scientifico all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Parliamo dei muscoli masticatori, il nome la dice lunga. Assolutamente, visto che io sono brevilinea sedentaria, però i muscoli della masticazione li uso abbastanza di frequente. Siamo tutti sportivi, quindi. Assolutamente. C'è una ricerca interessante, in realtà più d'una, perché a quanto pare chi mastica molto, quindi non chi mangia molto, chi mastica molto, per esempio la gomma da masticare, ha più memoria, è più concentrato e soffre molto meno di sonnolenza diurna. Esistono in particolare due studi, uno è tedesco e questo studio ha dimostrato che su 123 studenti, quelli che hanno l'abitudine a masticare, gomma da masticare, ritengono il 30% in più di informazioni nella loro memoria. Caspita. Un altro studio, sì, è molto in effetti. Un altro studio aveva già dimostrato in realtà che masticare spesso aumenta l'attività cerebrale. Come? Il meccanismo non è molto chiaro, però a quanto pare masticare fa aumentare il battito cardiaco e anche c'è una maggiore produzione di un ormone che si chiama insulina. Sì. In questo modo alcuni recettori che stanno nel cervello, nella zona dell'ippocampo, vengono stimolati e così aumenta la memoria. Oltretutto non solo c'è un aumento della memoria, ma c'è anche una riduzione dello stress e c'è effettivamente una maggiore lucidità mentale, quindi una maggiore capacità di concentrazione. Una piccola curiosità che però devo ancora verificare, sembra che masticare dal lato sinistro stimoli la parte destra del cervello, masticare dal lato destro della bocca stimoli la parte sinistra, quindi il suggerimento è quello di masticare un po' di qua, un po' di là per bilanciare le due parti del cervello. E masticando lentamente, noi lo sappiamo, e più volte aiuta anche la digestione. Sì. Assolutamente, perché masticare lentamente intanto aiuta a non mangiare troppo e male, quindi aiuta a digerire meglio e anche previene l'obesità. Ricordiamoci che l'obesità si previene anche molto semplicemente mangiando piano, perché mangiando piano si gusta ciò che si mangia e non si esagera. Dottoressa Luini, quindi i muscoli masticatori utilizziamoli bene, ci guadagna anche la memoria, oltre che naturalmente la nostra digestione. Poi masticando aspettiamo che arrivi quel segnale, quel senso di sazietà che ci impedisce poi di mangiare più del necessario. Dottoressa Luini, a presto, buona giornata. A voi, buona giornata. Dottor Melegatti, conta più la massa dei muscoli, la loro forza o la loro elasticità? È un quesito che vogliamo lanciare anche ai nostri ascoltatori, con l'invito di riflettere su queste tre aspetti della loro muscolatura. Chiamateci. Simone Diamantini rimane con noi, pronto ad indicare anche suggerimenti, attività, esercizi per risvegliare la massa muscolare, ma anche per rilassarla, perché parleremo anche di muscoli che sono sovrastimolati, un po' stressati e quindi si lamentano. Come arriva il dolore, ma certo, arriva anche un tetto, no, delle performance, per cui non si riesce ad avere magari il risultato che certo ci si aspetta. Essere e benessere. Ho 48 anni e come tutti quelli della mia età, dopo i 45 mettiamo su quella pancettina rassicurante. Per noi è un compagno di viaggio ideale, è utile anche in macchina. Ti appoggi il gomito sopra, davanti alla televisione che stai lì così, è bello, capito? E invece non puoi, perché viviamo in una società che si nutre di immagine, quindi devi sempre essere in forma e tua moglie te lo fa garbatamente notare. Peccato, perché sembri giovanile, terribile parola, però il boilerino davanti, orca miseria. Eccoci, siamo tornati. Parliamo di pancia, di addominali, di glutei, di cosce, ma anche di polpacce, avambracci, insomma, risvegliamoli, ma senza esagerare. Perché il segreto del muscolo, dottor Melegatti, è l'equilibrio. Sono d'accordissimo, l'equilibrio. Né troppo, né poco. Non solo nel muscolo, l'equilibrio deve esserci sempre in ogni cosa che facciamo, e soprattutto quando ci occupiamo di muscoli. I muscoli. Quando parliamo di equilibrio nei muscoli non parliamo solamente dello sviluppo della massa del muscolo, ma anche dell'equilibrio tra gruppi diversi di muscoli, tra muscoli agonisti e antagonisti. Sono muscoli che devono lavorare in modo sincrono ma anche alternato, e l'equilibrio tra questi gruppi muscolari ci permette una vita migliore. Simone, ci sono dei segnali che ci possono far capire che ci stiamo allenando non in modo equilibrato? Sicuramente sì, nel senso che basta vedere innanzitutto magari posizioni delle spalle di antiversione, quindi verso, diciamo, l'avanti, o comunque situazioni dove si riduce di molto la flessibilità muscolare di alcune parti del nostro corpo. E quindi fammi un esempio, che così capisco. Per esempio, magari quando ci viene la cifosi del dorso, oppure che non riusciamo a tirarci su la gamba il tallone vicino al gluteo. Quindi vuol dire che magari stiamo irrobustendo troppo le cosce sulla parte anteriore, chiamato quadricipite, e magari anche il gluteo, e quindi questo ci irrigidisce poi, come diceva prima il dottor Melegatti, tutta la parte del bacino e anche della schiena viene certo influenzata. Quindi questi sono i primi sintomi, nel senso la cosa migliore è sempre affidarsi comunque a un personale che ci dia almeno un quadro di riferimento di che cosa siamo noi e di che cosa vorremmo arrivare a essere. Lorenzo ci chiama dalla provincia di Brescia, Stefano da Milano. Lorenzo, benvenuto. Sì, buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei. Io dopo tanti anni che non giocavo più a tennis, ho deciso di giocare a tennis. Sì. Però diciamo che riuscivo a giocare una o due volte a settimana. Però dopo un po' mi sono... muscolo posteriore della coscia destra, sì, quando faccio un piccolo allungo io diciamo che si stira, un sì dolore pazzesco, e dopo devo smettere per due settimane e non riesco più a giocare. Ecco, insomma, il muscolo non collabora. Non Lorenzo collabora. Tanta buona volontà, ma il muscolo non ce la fa. Si ribella. Beh, questa è una situazione molto comune, soprattutto in persone che hanno fatto attività in passato e che riprendono dopo un po' di tempo. Questa ipersensibilità dei muscoli, questa contrattura muscolare può essere dovuta non solamente al tessuto muscolare, quindi può anche non essere dovuta a una lesione muscolare, ma per esempio a una disfunzione del tratto lombare, cioè al classico mal di schiena, alla lombalgia. C'è una correlazione tra contrattura della muscolatura, soprattutto posteriore delle cosce, e una disfunzione del tratto lombare e la lombalgia. E quindi una delle cose da fare è occuparsi non solo dei propri muscoli, ma anche della propria schiena, per esempio. Perché è da lì che nasce il problema. Nasce il problema. Andrea, posso farti una domanda? Certo. Ma magari io invece di risponderti ti spezzo in due. Vabbè, ma se è una domanda, se vuoi puoi anche non rispondere. Ecco, volevo sapere qual è il segreto della tua forza, perché visto che hai così tanti muscoli, volevo sapere se c'è qualche trucco, un segreto. Gli spinaci. Hai presente braccio di ferro? No, ma dai, io dico sul serio. Anch'io. Allora ci credo davvero. Togo, ma funzionano sul serio? Certo. Io mangio spinaci da quando sono piccolo e sono diventato fortissimo. Tu cos'è che stai mangiando? Spinaci come braccio di ferro. Ma perché? Sembra detto che ti facevano schifo. No, non sono così male, basta salarli tanto e poi fanno diventare forti. Ma Silvano, ma mica siamo in un fumetto, Mica diventi forte perché ti mangi gli spinaci. Sei sicuro? Allora facciamo un braccio di ferro, così vediamo chi è più forte. Spinaci sì, forse, ma da soli non bastano. In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Filippo Ongaro. Dottor Ongaro, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. In effetti sì, parlando di muscoli e di prestazioni muscolari, gli spinaci non bastano, ci sono tante cose da tenere presente. Una di quelle che spesso ci si dimentica è l'acqua, nel senso che i muscoli, come gran parte del nostro organismo, sono costituiti da acqua e il primo passo per una buona prestazione muscolare, per una crescita equilibrata e anche un giusto recupero è quello di bere a sufficienza, non soltanto di bere, ma anche di mangiare cibi ricchi di acqua e di minerali e di vitamine, quindi in particolare la frutta e la verdura. Quindi non concentriamoci solo sull'apporto di proteine, ma su un'alimentazione complessivamente bilanciata. Anche se l'azione cosiddetta plastica la fanno le proteine, così almeno si dice. No, senza dubbio, cioè le proteine sono quelle che permettono di costruire la massa muscolare e quindi se l'obiettivo è proprio quello di rafforzare il muscolo bisogna sicuramente assumere una buona quantità di proteine. In generale si dice che per chi fa attività fisica con regolarità un grammo e mezzo per chilo corporeo sia la quantità sufficiente, non serve in genere esagerare, anzi direi che al di sopra di questo livello non ha molto senso, anche perché bisogna sempre ricordarsi che non conta soltanto quante proteine mangiamo, ma quante in effetti vengono assimilate, e lì la cosa importante è intanto scegliere le proteine che siano, diciamo, biologicamente più compatibili e di valore più alto e, ripeto, mangiare complessivamente in modo corretto in modo da avere le vitamine, i fitonutrienti e tutte le cose che servono perché le proteine vengano effettivamente assimilate e utilizzate per formare tessuto muscolare. Ci sono delle differenze nella dieta di una donna che vuole comunque aumentare la propria fascia muscolare, la massa muscolare e quella di un uomo? Ma possono esserci delle differenze quantitative perché e delle differenze metodologiche nell'allenamento, però credo che se uno seleziona bene le proteine il valore biologico vale per maschi e per femmine, il massimo si dice che sia il bianco d'uovo, ma diciamo che anche il pesce e le carni magre sono sicuramente delle proteine di buon valore. Non sottovaluterei i legumi, di cui abbiamo parlato molto spesso in Mangia con me, perché soprattutto se mescolato con i cereali integrali forniscono delle proteine di buon valore biologico con poche calorie e pochissimi grassi. Quindi, dottor Ongaro, è una leggenda metropolitana che non bisogna assumere fibre prima di un allenamento? Ma guarda, Nicoletta, su queste cose poi devo dire che vale anche moltissimo la sensibilità di ognuno di noi, soprattutto quando si parla di atleti. Gli atleti di un certo livello si conoscono molto bene e adeguano il loro approccio alle loro risposte. Per quello che mi riguarda non è assolutamente controindicato, anzi se si assumono cereali ricchi di fibra avremo il doppio vantaggio di dare energia al corpo, ma allo stesso tempo senza destabilizzare troppo la glicemia, che come sappiamo alle volte poi produce un effetto contrario, appunto di stanchezza e di debolezza, quindi secondo me non è necessario escluderla. Grazie dottor Ongaro, che tra l'altro tornerà da noi giovedì, quindi noi ci sentiamo prestissimo. Ci sentiamo prestissimo. Prestissimo. Saluti a tutti. Grazie, buona giornata a lei. Essere e benessere. Eccoci qua, abbiamo Stefano che ci chiama da Milano. Buongiorno Stefano. Buongiorno Nicoletta. Ma le danno più soddisfazioni i suoi muscoli o più preoccupazioni? Perché la partita si gioca qui. Allora, prima mi davano tante soddisfazioni, adesso incomincio ad avere una certa età, incomincio a darmi anche un po' di preoccupazioni. Ma quanta certa età? Quale? Perché Io ho 38 anni. Ma no, No, Stefano, io metto giù. Insomma. Stefano è caduto, non lo sento. No, dai, Stefano. No, stavo scherzando. No, fondamentalmente io sono una persona molto sportiva che però passa molto tempo in macchina per il suo lavoro. Sì. E mi è venuta fuori una protrusione alla quarta, alla quinta vertebra lombare. Io faccio nuoto, palestra, bicicletta e tutto. Adesso sto facendo un trattamento che si chiama Mesiers. Volevo sapere se potevo fare qualche esercizio di allungamento specifico per la schiena, tipo stretching, qualcosa del genere, e se potevo fare lombari addominali, perché io in questo momento li ho completamente sospesi. Li ha sospesi, però loro sono ancora lì, Sì, sì, sì, assolutamente, va bene. Certo, assolutamente. La ringrazio. Facciamo un tiro incrociato. Sì. Tra lei e Simone Diamantini. Ma allora, posso... Vada. Il fatto di stare in auto a lungo purtroppo non è aiuta. Una cosa buona, ma del resto un sacco di persone lo devono fare. Allora, intanto la posizione in auto. Il sedile deve essere alto, deve esserci un sostegno lombare, quindi la seduta deve essere comoda, adeguata. Uscire e entrare dalla macchina con molta cautela, non di scatto e non torcendo molto il tronco. Anche se si ha 38 anni. Anche, 38 anni, è un bambino praticamente. No, e il metodo Mesiers è una ginnastica posturale che è assolutamente indicata per il problema che ha Stefano. Simone aveva introdotto un concetto fondamentale che è il concetto della core stability, cioè del rinforzo della muscolatura che sta intorno al cingolo pelvico. Bisognerebbe che Stefano si potesse informare, magari sentendo una persona esperta, per imparare quei 3-4 esercizi che gli consentono di rinforzare la muscolatura che sta intorno al cingolo pelvico, perché la chiave è quella. E la lì partita il cuore. Si gioca lì. Simone, è lì il cuore. Sì, sì, sì, assolutamente. Concordo al 1000% con il dottore, con una sola considerazione, che esercizi di core stability, che in questo momento vanno per la maggiore, vengono chiamati in questo modo, dovrebbe essere seguito, soprattutto perché penso che sia in fase acuta il problema, quindi dovrebbe essere seguito, perché spesso questi esercizi, se non vengono eseguiti, controllati molto bene, uno compensa e spesso crea il problema che poi dopo in realtà cercava di risolvere, certo. Cioè il problema alla schiena. Quindi all'inizio bisogna interiorizzarli, così si dice, cioè cominciare a farli in modo adeguato e magari molto leggeri per tante volte, in modo tale che si crea il presupposto muscolare per sostenere poi tutta la struttura. E soprattutto centrare gli esercizi giusti, per esempio il lavoro sugli addominali. Non tutti gli esercizi che si fanno per gli addominali sono corretti. Il classico esercizio che si fa fissando i piedi e venendo su molto col tronco non è assolutamente adeguato, perché fa lavorare in parte, solo in parte, gli addominali e in gran parte dei muscoli, che più contratti e più forti sono e spesso più problemi alla schiena ci sono. Invece la cosa giusta? La cosa giusta è, adesso non credo di avere tempo per spiegare gli esercizi, intanto sentire una persona sì. esperta. Posso dare un consiglio veloce? Sì. C'è un esercizio che a me piace molto, che è l'esercizio iniziale da fare, che è un esercizio che sviluppa non tanto il retto dell'addome, ma un muscolo che si chiama trasverso dell'addome, che sta molto in profondità. Il paziente si mette sdraiato con le ginocchia piegate a 90 gradi, ben rilassato, e cerca, senza muovere il bacino, di tirare la pancia più in dentro possibile. Ricordi quando si diceva tira la pancia in dentro? Sì. La pancia deve essere risucchiata all'interno della cavità addominale, contare fino al 5 e ripetere questo 10 volte. Questo riattiva un muscolo che spesso dorme ed è fondamentale per la stabilità. Risveglio. Il risveglio muscolare. Quindi l'ombelico cerca di toccare l'ombelico, la colonna vertebrale. Perfetto, questa vero? È la spiegazione più giusta. Voilà, semplice a dirlo, un po' più difficile a farlo. Simone, i temuti tricipiti che con l'età tendono a rammollirsi, una buona ragione per non utilizzare troppo sale, perché vedi c'è sempre il lato buono di ogni cosa, perché quando noi mettiamo il sale e ci balla un po' la ciccetta ci rendiamo conto che lì dobbiamo andare a tonificare. Qual è l'esercizio per tenere su questa parte? Ma allora, io sono sempre più dell'idea che fare solo un esercizio non sia mai la cosa migliore, perché andiamo sempre a creare poi un grosso squilibrio, perché il tricipite come magari tutto il movimento del braccio ne viene condizionato. Comunque gli esercizi base sono sicuramente o a carico naturale, i classici piegamenti sulle braccia che comunque aiutano tantissimo quella parte, piuttosto che muscoli selezionati come gli esercizi ai cavi, quindi con i manubri o piuttosto che con i cavi di spinta delle braccia verso il basso. E invece i pesi anche da fare a casa con la classica bottiglia d'acqua di riempita per metà? Quelli sicuramente si possono fare, nel senso basta mettere il braccio dietro la testa e distendere verso l'alto la bottiglia. La cosa importante però è che dobbiamo differenziare, cioè noi vogliamo tonificare, all'inizio dobbiamo creare dei presupposti muscolari, quindi fare magari tante ripetizioni con un carico medio-medio-basso, anche perché dobbiamo impararlo l'esercizio. Sì. Poi magari vogliamo renderlo un po' più forte, dobbiamo aumentare l'intensità del carico. Però non fare mai il contrario, cioè non fare prima la forza massima e poi dopo cercare di aumentare la massa muscolare. Sì, se no fanno male e poi ci si strappa. Salvatore, buongiorno. Buongiorno, salve. Ecco, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Io volevo chiedere, sono un ciclista amatoriale, ma proprio di quelli amatoriali poco, quindi riesco a uscire 2-3 volte a settimana, facendo un 60 km per volta. E ho un problemino, ho le gambe belle perché comunque i chilometri si sentono, però ho la parte superiore del corpo abbastanza esile, più che altro un po' di pancetta, però le braccia e il petto abbastanza piccole. Non avendo tanto tempo da poter dedicare a quindi andare in palestra e quindi utilizzare pesi, qualche esercizio da fare a casa per poter allenare la parte superiore del corpo? Per rendere più armonica magari la Perché lei è forte di gambe naturalmente e un po' tronco. E questo può andare bene nei professionisti, perché i ciclisti professionisti sono fatti così, non hanno muscoli nella parte superiore, però invece un equilibrio, un'armonia muscolare è perfetta. Esercizi semplici fatti a carico naturale o utilizzando degli elastici, io suggerirei. Simone? Sono concorde con il dottore, inserirei anche degli strumenti che si possono trovare nei negozi di sport, che sono praticamente dei cavi che danno la possibilità di lavorare in gestione del disequilibrio, o anche con la Swiss Ball, che è una palla gonfia che ci permette di eseguire 1000 esercizi delle braccia e del tronco. Perfetto. Perché poi non dimentichiamo che l'ascoltatore probabilmente in bicicletta tutta la parte del tronco si lavora molto poco, e spesso quando si fanno salite lunghe si tira con le mani dal manubrio e qualche fastidio alla colonna viene. Dottor Melegatti, un minuto di tempo per dare un consiglio molto utile. Ne avevamo parlato, ma voglio tornarci, per le persone che dopo un allenamento hanno male ai muscoli. Beh, intanto idratarsi molto bene, fare stretching, allungamento muscolare e soprattutto riconsiderare bene il loro programma di allenamento, perché questo è il problema. Muscolo dolente, caldo o freddo? Un caldo moderato, molto moderato, un bagno caldo, non bollente, qualche massaggio, e il freddo solo quando c'è un problema acuto. Quindi nel problema acuto ghiaccio. Borsa del ghiaccio. Addirittura lei aveva suggerito una volta un'immersione in una vasca con cubette di ghiaccio. Questo è perfetto fino alla vita, se la persona lo sopporta, perché questo ci permette veramente di controllare il danno a livello ultrastrutturale, a livello delle fibre muscolari. E ricordatevi l'esercizio per risvegliare il muscolo solitamente svenuto. Ricordatevi ombelico che bacia la colonna vertebrale. Dottor Melegatti, Simone Diamantini, grazie a voi, a Filippa Oreggi in regia alla parte tecnica, a Laura Vanossi in redazione. Come sempre la puntata potete riascoltarla, scaricarla e come sempre seguiteci. A domani. Radio 24. La passione si sente. Essere e benessere.